in primo piano. Buongiorno, buon sabato mattina a tutti da Valentina Forlanetto. Iniziamo subito con la lettura dei giornali poiché abbiamo davvero pochi minuti per farlo. Giornali che si concentrano principalmente sul risultato del G20 sia dal punto di vista diciamo così della politica estera e quindi il nodo Siria sia dal punto di vista economico, perché si è parlato chiaramente anche di crisi economica e il premier Letta ha fatto anche degli annunci. Questo ovviamente sullo scenario di una crisi politica di governo che potrebbe esserci nei prossimi giorni, perché c'è sempre in ballo, lo sapete, la decadenza da senatore di Silvio Berlusconi e quindi anche a ridosso proprio dell'8 di settembre, di un anniversario importante per l'Italia, si ricorda questa data dal punto di vista dell'attualità, quindi su quello che potrebbe essere e rappresentare oggi l'8 di settembre. Ma andiamo a vedere un po' i titoli. Sole 24 ore, Letta, Italia al cuneo fiscale, l'impegno dell'Italia al G20, con un corsivo del Sole 24 ore dal titolo chiaro, il titolo è adesso però i fatti. La crisi italiana, rischio per la ripresa anche da Cernobbio, imprenditori ed economisti vedono segnali di crescita ma vedono anche timori per l'instabilità e la Siria, e appunto si parla di 8 settembre, i fantasmi dell'8 settembre, con il punto di Stefano Folli, con un'analogia che lo stesso Folli definisce un po' forzata e quindi impropria. Eppure, dice, la tentazione di proporre un parallelo con gli eventi di allora è forte. Su un punto in particolare, l'8 settembre segnò il collasso delle istituzioni, il disfacimento dello Stato travolto dalla sconfitta militare e politica. Su questi temi più diciamo interni, anche il Corriere della Sera: governo interviene Alfano, più forte il fronte anticrisi in taglio medio, con un corsivo di Francesco Verderami, il Cavaliere La Grazia, i figli dicono la chiediamo noi. Repubblica: Berlusconi frena i falchi, ora spunta l'ipotesi di revisione del processo, con un articolo interno di Eliana Milella che scrive quello stratagemma per bloccare la pena. E su questo, sulla possibilità di una revisione del processo, anche il giornale, proprio l'apertura del giornale, il piano B per Berlusconi, parla il leader delle colombe, il ministro Quagliariello avvisa il PD, siamo responsabili non stupidi, se pensano di liquidare il Cavaliere sarà la rottura. Sia Repubblica che il giornale fanno riferimento alla possibilità di un fatto nuovo, l'unica possibilità per Berlusconi di far riaprire il processo Mediaset, che sarebbe quella delle nuove carte che sarebbero state trovate, nuove carte svizzere su Agrama, il produttore americano, mai acquisite nelle udienze. E questa è l'ipotesi con la quale si esercitano i cronisti. La Stampa: Grasso su Berlusconi, legge uguale per tutti, ha detto il presidente di Senato, del Senato, la legge è uguale per tutti, ed ha anche aggiunto la vera decadenza è del paese. Poi D'Alema: dovrebbe fare un passo indietro, riferito a Berlusconi. E Alfano, che apprezza le parole di Napolitano, la fiducia sull'ex premier è ben riposta. Ancora su queste questioni più interne, Libero: chi può salvare Letta e affossare Silvio. E poi un editoriale di Maurizio Belpietro: la legge uguale per tutti, peggiore per il Cavaliere, questa la legge, secondo il giornale Libero. Il Foglio: il Cavaliere nel paese del cinismo, lui, la sua incertezza, il suo popolo iroso contro i manettari. Anche qui si ricorda l'anniversario del 8 settembre, c'è 8 settembre al titolo, Napolitano lo evoca per esorcizzarlo, Repubblica cerca la resa dei conti. L'Unità: con Letta l'Italia serve stabilità, ora il PDL frena. E poi c'è un'intervista a D'Alema: con Renzi media e big, ma noi ci batteremo, così dice D'Alema alla festa di Genova. Il Manifesto: settimana di passione, resa o guerra totale, con una foto di Berlusconi. D'Alema sferza Renzi, tutti con lui, ma non sa cosa vuol dire dirigere un grande partito. E poi ancora il Fatto Quotidiano, trattativa Stato Mediaset, non bastava Gianni Letta, adesso il Caimano sguinzaglia sul Colle a mediare con Napolitano, il capo delle sue aziende confalonieri. Al di là dei proclami del PDL e delle notte del Quirinale, il negoziato per il salvacondotto AB è più che mai in corso. Il Messaggero ospita invece un'interessante intervista a Barbara Berlusconi, la figlia del ex premier. Vogliono eliminare mio padre, dice Barbara Berlusconi a Maria Latella da Cernobbio. Parla la figlia del Cavaliere, c'è una lobby che blocca l'Italia per fare i suoi interessi. Marina, una manager, serve alle aziende. Quindi vi rimando a questa intervista a pagina 9 di Maria Latella a Barbara Berlusconi. E poi Avvenire, Letta, ora i grandi ci promuovono ma chiedono stabilità, riferito ovviamente al G20, e poi crisi al buio, dicono gli imprenditori, colpo di grazia per il paese. Il Secolo XIX ospita un'intervista a Orellana del Movimento 5 Stelle, che dice: il traditore non sono io, ma chi nel Movimento 5 Stelle decide senza ascoltare la gente. Dicevamo, l'altro grandissimo tema è quello della Siria. Siria, i leader divisi, Putin, se c'è l'attacco con noi, con Damasco. Questo scrive il Sole 24 Ore, che ospita anche l'opinione di Carlo De Benedetti, che dice: una guerra disastrosa, la ripresa dell'economia occidentale ha già troppi margini di incertezza, e quindi una guerra appunto sarebbe disastrosa. Il Corriere della Sera: Obama non piega Putin sulla Siria, con gli Stati Uniti 10 paesi ma la Russia ancora aiuti militari a Damasco. La Repubblica: Siria, il fallimento dei grandi. E poi all'interno, il digiuno delle beffe di chi specula sul Papa, di Gad Lerner. Il Giornale: il G20 si spacca a metà ma dà una mano a Obama. La Stampa: Siria, il mondo si spacca, Putin, se attaccano aiuterò Assad. Obama: impopolare ma bisogna agire. Di Maurizio Molinari l'articolo, il commento su questo. Il G20, scrive Molinari, esce dal summit di San Pietroburgo trasformato dalla crisi siriana nel nuovo terreno di scontro fra Stati Uniti e Russia. Si tratta di una svolta brusca dalle conseguenze imprevedibili. Libero: il mondo digiuna con Francesco, l'unico premier davvero credibile. Sul Foglio: sull'isoletta del G20, Obama fa il commander in chief della guerra in Siria, 11 paesi lo sostengono ma solo con il mandato dell'ONU. Il grido della pace è il titolo dell'Unità. E prima di chiudere, il Messaggero: Putin, difenderemo la Siria. Questa era l'ultimo giornale che ci ha dato guardare questa mattina. Adesso c'è la pausa. Io vi ricordo, oggi proprio è stato direttore del Messaggero un grande giornalista che è scomparso 2 giorni fa, Silvano Rizza, e oggi viene ricordato al Verano a Roma alle 9:30 da Amici e Familiari, un grande maestro di giornalismo, fondatore della Scuola di Giornalismo di Urbino. Da Valentina Furlanetto è davvero tutto, ci risentiamo domani.